Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Un abuso al giorno. Allora, subito la mail alla quale scrivere i vostri casi. Mi raccomando che non siano personali, perché su quelli non possiamo incidere in alcun modo e non sono trattabili. Ne riceviamo moltissime di queste mail. Mi scuso con tutti coloro i quali non vengono contattati dalla redazione. Spesso è proprio perché sono casi troppo personali. Altre volte perché abbiamo purtroppo veramente moltissime mail che giungono. Allora, la mail è unabusoalgiorno@radio24.it, mentre invece il mio blog, se volete leggerlo, consultarlo e darmi dei suggerimenti, mi farà piacere, è robertogalullo.blog.ilsole24ore.com, oppure cliccate sull'home page del Sole 24 Ore, nello spazio Agora c'è il mio blog Guardie o Ladri. Allora, cominciamo con la puntata di oggi. Come sapete, c'è un ministro che sta facendo di tutto per aumentare il suo prestigio e comunque la sua attenzione al pubblico impiego, denunciando a destra e a manca le storture della nostra pubblica amministrazione, e si scaglia contro i cosiddetti fannulloni della pubblica amministrazione. Questo ministro è ovviamente Renato Brunetta, che ha dichiarato guerra a coloro i quali non lavorano, e devo dire, in questi mesi i tassi di assenteismo, non so se per la sua crociata o per un maggior senso di responsabilità dei dipendenti pubblici, comunque sono calati moltissimo. Oggi parliamo di un caso che in qualche modo può essere ricondotto al pubblico impiego. Non mi permetto di dire che sia il caso di una fannullona, anche perché ha fatto causa e ha vinto, però il caso è sicuramente molto molto curioso e degno di essere approfondito. Si tratta di un'impiegata dell'amministrazione della giustizia che da malata va in TV, in una TV locale, in un circuito locale, e recita in TV. Scandalo, denunciata, ma comunque in ultima istanza è stata assolta dall'accusa di truffa aggravata. Un caso francamente anomalo. E di questo caso noi parliamo con l'avvocato di questa impiegata dell'amministrazione della giustizia, l'avvocato Domenico Puzzolu. Buongiorno avvocato. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Allora, intanto il caso si svolge a Tempio Pausania, quindi esatto, Siamo in Sardegna, nella splendida Sardegna, nella provincia di Olbia. Allora avvocato, mi corregga nelle cose che io ho, come dire, malinterpretato, se c'è qualcosa che secondo il suo giudizio io ho detto male in inizio di questa trasmissione, e poi proseguiamo con la nostra chiacchierata. Ma guardi, ciò che ha detto lei è assolutamente, assolutamente vero, per quanto attiene sì alla parte dell'episodio che lei ha raccontato, cioè di una dipendente che era in stato di malattia e che aveva partecipato, per chiamarla con la stessa dizione del capo di imputazione, a un'attività ricreativa, una commedia dialettale. La vicenda però va un tantino raccontata tutta. Ecco, infatti siamo qui proprio per almeno nel suo divenire. Assolutamente. Ecco, come nasce questa storia? Ma la storia nasce in questo modo: si tratta di una dipendente dell'amministrazione penitenziaria che per una patologia in essere da molti anni ha dei problemi di salute. Per questa situazione, in un periodo che va dal 2003 al 2004, la signora viene sottoposta a ben due processi penali. Sì, per lo stesso episodio. Perché ovviamente l'amministrazione, come dire, si arrabbia, per usare un eufemismo, e dice: ma come, te ne vai in TV a recitare in dialetto e non vieni a lavorare? Qui c'è qualcosa che non quadra, avrà pensato, sì, no? Non è, questa è una è in estrema sintesi. La realtà delle cose è in sostanza questa. La signora subisce un primo processo perché presenta una serie di certificati medici che l'amministrazione ritiene che siano in qualche modo una ritorsione a dei comportamenti non accettati dal dipendente in ambito di lavoro. In altri termini, succedono dei contrasti all'interno dell'ambiente di lavoro e la signora presenta dei certificati medici. Per questo episodio si apre un procedimento penale. Subito dopo la malattia prosegue, l'amministrazione viene a sapere che nel corso della malattia la signora registra un programma televisivo che poi viene diffuso da un emittente locale e quindi presenta una seconda denuncia, accusandola questa volta anche di truffa per aver indebitamente percepito le retribuzioni. Quindi questo è il quadro esatto della vicenda. Esattamente, ecco, però voglio dire, a questo punto, a che punto è il processo penale? Si è svolta che cosa? L'udienza in primo grado? Qualcuno ha presentato appello? Ci spieghi no, a che punto è? Non ha presentato appello nessuno. Dunque, il primo processo viene definito, se mal non ricordo, circa un anno e mezzo fa con una soluzione. Il secondo processo, che sotto certi profili ha degli aspetti di maggior gravità e quindi passa dall'udienza preliminare, viene definito col cosiddetto rito abbreviato, che è praticamente quella forma di definizione che consente di chiudere la vicenda senza affrontare il pubblico dibattimento. Da qualche giorno e la signora viene assolta anche in questo processo, su conforme richiesta questa volta anche del pubblico ministero, per intendere. Ecco, a me sembra molto strano, mi è suonato strano che l'amministrazione non abbia fatto appello, e se non sbaglio in udienza mancava anche l'avvocatura dello Stato, praticamente non si è proprio presentato il ministero. Ecco, allora il punto di discrimine è questo, senza indulgere in tecnicismi. Sì. Che poco rilevano. Il diritto di impugnazione spetta esclusivamente alla Procura della Repubblica, che quindi, per come è strutturato nel nostro ordinamento, è assolutamente indipendente dalla pubblica amministrazione. Assolutamente. La pubblica amministrazione ben poco può fare, nel senso che. Però non si è presentata di fatto. No, assolutamente. L'Avvocatura dello Stato, che è l'organo che può costituirsi parte civile. Anche ecco, è come se lo Stato avesse rinunciato, o perché sapeva che comunque avrebbe perso la causa, o forse per disattenzione, chissà. Devo dire ai nostri radioascoltatori che noi abbiamo cercato di metterci in contatto con quello che rappresenterebbe lo Stato, vale a dire l'amministrazione della giustizia e segnatamente l'istituto penitenziario in cui svolgeva e credo ancora svolga il suo lavoro questa dipendente, però non abbiamo proprio avuto risposta. Ora lo cercheremo ad un livello più elevato presso il Ministero. Chissà che qualcuno non ci dia udienza, perché, avvocato, lei lo capirà, la vicenda suona comunque abbastanza curiosa e strana. Oggi, per esempio, le chiedo, sarebbe possibile per la sua assistita avere questo tipo di trattamento? Non dico di favore, perché se è stata assolta io non ho dubbio di credere che non lo meritasse, assolutamente, ma non sarebbe forse oggi un po' più complesso recitare, andare in TV e nel contempo essere ammalata? Ma guardi, io credo che per completezza ritengo che questo sia il suo modo di procedere. Va detta una cosa: la soluzione avviene perché nel processo si appura, per affermazione dello psichiatra che aveva in cura la signora, che la patologia della signora è una patologia in essere da 15 anni. Quindi io credo che il nocciolo della questione sia questo. Cioè, sì, comunque una malattia che permette di recitare e che non così permette di lavorare. Così ha detto il medico. Il medico sì, è stato molto preciso al dibattimento su questo. Ha parlato di un disturbo bipolare, che è, perché la patologia era una patologia a carattere psichiatrico, quindi questo forse espressamente non l'abbiamo detto, però per gli ascoltatori. Sì, no, ma ora lo stiamo dicendo, quindi è sicuramente più chiaro. No, avvocato, comunque guardi. Non aveva il braccio rotto. Sì, ho capito. Ho capito perfettamente. Noi abbiamo descritto i fatti e la ringrazio ancora una volta per aver rappresentato così bene il caso. Sicuramente la vicenda è degna di essere approfondita. Quindi io direi, e lo dico anche all'avvocato che ringrazio, nei prossimi giorni noi cercheremo ancora di approfondirla attraverso il Ministero per la Funzione Pubblica. Il tempo a nostra disposizione è scaduto, quindi io ringrazio in regia Fabio Cantadori e in studio Laura Faggin, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.